Scusa, posso offrirti da bere? Niente di più, solamente un bicchiere. Tra questa gente buttata sui tavoli, senza poesia, c'è una corrente di vecchi profumi e di malinconia. Dai, siediti qui, voglio solo parlare. Ce ne stiamo così, come due barche nel mare. E questa musica scioglie un silenzio che è dentro di me. Ah, ma c'è un silenzio pesante che non va tenuto per sé. Posso farmi vicino, stabilire un contatto tra noi. Se ti guardo sorridi, ti prendo la mano, lo so che lo vuoi. Dici che ho fretta e che poi mi comporto con troppa ansietà. Ma perché c'è una vita che scappa e non so dove va. Resta così, fatti ancora sfiorare. Io te lo dico così perché ti voglio baciare. C'è una montagna di noia che schiaccia la gente che c'è. Ah, ma tu non meriti noia, rimani, c'è una donna per te. Vieni a starmi vicino, sta nascendo qualcosa tra noi. Se mi stringi la mano, potremo sognare la vita che vuoi. Cantano che scappa e non so dove va. Più tempo che il conto è pagato e scappiamo di qua.